Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, il Consiglio dei Ministri sul tema ILVA e soprattutto Riva, cioè gli stabilimenti della Riva. Ricorderete, dopo il sequestro pari a quasi un miliardo di euro operato dalla magistratura tarantina, il gruppo Riva ha bloccato la produzione in stabilimenti che vanno bene in molti casi, hanno ordinativi fino a dicembre, commesse importanti, perché non può disporre della liquidità. Abbiamo seguito in tutte queste settimane la vicenda, c'è chi ha detto, l'ho detto dalla stessa procura tarantina, che in realtà il sequestro non esclude la possibilità di andare avanti con l'attività produttiva. Il governo sta cercando una mediazione su questo ed era stato convocato per oggi alle 15 un Consiglio dei Ministri per approvare un decreto specifico ad hoc sul caso di Riva Acciaio. Non si è saputo più nulla, possibile che l'incontro si svolga in serata, più probabile che slitti a domani. L'incontro avrebbe dovuto permettere di sbloccare appunto la situazione delle sette società raggruppate sotto la holding Riva Forni Elettrici. Ricordo che gli stabilimenti sono quelli di Caronno Pertusella, Varese, Verona, Lesegno in provincia di Cuneo, Annone Brianza in provincia di Lecco, oltre ai tre impianti della Val Camonica. Sono appunto complessivamente 1400 dipendenti. Di questo parleremo anche, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, delle elezioni tedesche, della ricaduta e degli scenari che si aprono, vista non solo la conferma ma il rafforzamento della CDU e quindi di Angela Merkel. E ancora parleremo di Alitalia. Come già abbiamo annunciato venerdì scorso, oggi giornata molto importante perché si è riunito nel pomeriggio il Consiglio di Amministrazione dell'Air France, che dovrebbe pronunciarsi tra l'altro sulla possibilità o meno di aumentare la sua quota in Alitalia. Tra un mese scade il cosiddetto lock-up, cioè il patto che tiene assieme gli attuali azionisti, e Air France ha il 25% in questo momento dell'Italia. Bisogna capire se vuole partecipare all'aumento di capitale, ma soprattutto se vuole arrivare ad averne il 50%, quindi di fatto diventando l'azionista unico di riferimento, possiamo dire così, del gruppo. E anche di questo parleremo, dicevo, di Angela Merkel, di scenari che si aprono. Il tema e l'analisi l'affronteremo alle 18, dalle 18.10 in poi, come sempre anche la borsa che oggi procede in maniera debole, negativa, ma non così preoccupante. Meno 0,40% perde Milano, meno 0,80% perde Parigi, lo 0,70% lo perde Francoforte e anche Londra. L'America mezzo punto percentuale di calo, euro su dollaro a quota 1,34,95, quasi 1,35, quindi rafforzamento l'euro. Tra i titoli segnalo bene Telecom Italia più 4,21%, Finmeccanica più 3,85%, qui su Finmeccanica è sempre il capitolo cessioni di alcune controllate, ossia Ansaldo Energia. Su Telecom invece sono sempre gli scenari sull'assetto societario, ne parleremo più avanti nel corso del commento di borsa. Monte dei Paschi più 1,70, Fiat più 1,60, Ansaldo STS più 1,20. Chi perde? Eni, meno 3,30%, Mediaset, meno 2% come Azimut, A2A, l'1,90, Luxottic, meno 1,60 come Mediolanum, ST Microelectronics, meno 1,20, Fondiaria, meno 0,90%. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e come sempre poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. Altre notizie in breve per quello che riguarda l'economia internazionale. Oggi il rapporto dell'ILO, l'Organizzazione Mondiale sul Lavoro, sul lavoro minorile, pur segnalando un calo comunque del 32% tra i minori che lavorano rispetto al 2000, per cui sostanzialmente nel 2000 c'erano 246 milioni di bambini minorenni al lavoro, adesso ce ne sono, l'anno scorso, 168 milioni, il dato è ancora altissimo, e quelli con meno di 11 anni a livello mondiale sono ancora 73 milioni di bambini. Nel frattempo, altro fronte completamente diverso, il nuovo iPhone, l'abbiamo saputo oggi da un'agenzia, ha fatto un vero e proprio boom di vendite, 9 milioni di smartphone, iPhone venduti in 3 giorni, si tratta di un risultato che va ben oltre le attese, sottolineo dall'Apple. Gli analisti prevedevano non più di 6 milioni di esemplari venduti, si tratta dei nuovi iPhone 5S e 5C, sempre dall'America, ma questa volta riferita alla Federal Reserve, la banca centrale americana. Si è saputo che il presidente Barack Obama non nominerà il presidente della Federal Reserve questa settimana, resta Janet Yellen in pole position, la nomina però non è scontata. Il presidente della Federal Reserve di New York oggi ha detto che comunque l'economia americana ha ancora bisogno del sostegno di una politica monetaria molto accomodante, e a proposito di tassi di interesse, ma qui il riferimento è a Draghi e quindi la Banca Centrale Europea, Mario Draghi oggi parlando al Parlamento Europeo ha detto i tassi resteranno bassi nel lungo termine, nel medio termine sicuramente, anche nel lungo termine, anche se avere bassi tassi di interesse a lungo termine comporta rischi per la stabilità finanziaria. Lo abbiamo visto nel passato, finora c'è un'evidenza molto limitata che sia questo il caso. Cosa vuol dire Draghi? Che tenere i tassi troppo bassi rende la liquidità troppo facile e diciamo, la stabilità finanziaria può essere minacciata dall'assunzione di atteggiamenti molto speculativi, visto che è molto facile avere denaro in prestito, è molto facile anche utilizzarlo. Si rischia una cosiddetta bolla da questo punto di vista. Draghi ha anche aggiunto che la Banca Centrale Europea è molto sensibile ai rischi derivanti da un livello molto molto basso dei tassi. Since our meeting in July, we have received positive data for the euro area economy. Dal nostro incontro nel mese di luglio abbiamo ricevuto dati positivi per l'economia dell'area dell'euro. Dopo sei trimestri negativi, nel secondo trimestre del 2013 il PIL dell'area euro è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Gli indicatori di fiducia e sull'attività economica confermano che l'area euro dovrebbe proseguire la sua lenta ripresa nel trimestre in corso, nonostante dei deboli dati sulla produzione industriale registrati in luglio. In prospettiva, l'attività economica dovrebbe anche iniziare a beneficiare di un graduale miglioramento della domanda interna, sostenuta da una politica monetaria della BCE accomodante, così come dovrebbe crescere la domanda estera di prodotti europei. Tuttavia, la disoccupazione nella zona euro rimane troppo elevata e la ripresa deve ancora consolidarsi. In agosto l'inflazione dell'area euro è scesa all'1,3% dall'1,6% di luglio. Non ci attendiamo un aumento della pressione sui prezzi, visto il ritmo blando della ripresa e la persistente debolezza della domanda aggregata. Nel medio-lungo termine, le aspettative di inflazione continuano a essere saldamente ancorate a una prospettiva di stabilità dei prezzi. Le dinamiche monetarie e del credito restano fiacche e il tasso di variazione annuo dei prestiti al settore privato, e in particolare alle imprese, si è ulteriormente indebolito in luglio. Questa dinamica continua a riflettere l'attuale fase del ciclo economico, ma anche l'accresciuto rischio di credito e gli aggiustamenti in atto nei bilanci bancari. Il significativo miglioramento della situazione dei finanziamenti delle banche, iniziato nell'estate del 2012, non si è infatti ancora tradotto in una crescita del credito. Quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, tanto sapevate che l'avrei detto, mi piacciono anche i contenuti, perché Draghi appunto ha aggiunto che la BCE è pronta ad altra liquidità per le banche se necessario, che gli spread dei vari paesi risentono delle dinamiche dei vari paesi e li ha invitati a fare le riforme, e poi ha detto attenzione, le banche hanno ricevuto più capitale, l'hanno ricevuto diciamo dalla BCE, ma non stanno erogando il maggior credito, ci sono meno prestiti alle imprese e ai privati, che riflettono anche lo stato del ciclo economico. L'Italia, per quello che riguarda lo spread, siamo a 241 punti. Sapete che il tema politico, insomma, l'intervista del ministro Saccomanni ieri, il tema politico resta la tenuta del ministro. Il premier Enrico Letta si è schierato al fianco del ministro dell'economia, appunto Saccomanni, che aveva minacciato le dimissioni se non si faranno operazioni di verità sui conti, se i partiti non cesseranno gli slogan su fisco e deficit. Attaccato dai falchi del PDL, sostenuto in parte dal PD, anche se il PD ha chiesto maggiore equità nelle scelte. E sulle polemiche che hanno coinvolto Saccomanni questa mattina è intervenuto al microfono il nostro Alessandro Milan a 24 mattina anche il vice ministro dell'economia di area PD Stefano Fassina. Dobbiamo scegliere, perché ci sono impegni che valgono quasi 6 miliardi, perché oltre al miliardo di IVA ci sono 2 miliardi e 4 per la seconda rata IMU, ci sono le missioni internazionali e la cassa integrazione in deroga da rifinanziare, e ci sono 1,6 miliardi e 7 da trovare per rimanere al 3% del rapporto fra deficit PIL. Bisogna scegliere. Il ministro Saccomanni, come tutti noi che abbiamo una qualche consapevolezza dei conti pubblici, del bilancio pubblico, siamo preoccupati dal livello di demagogia, non ci si può comportare come se fossimo in campagna elettorale, dobbiamo fare i conti con i dati di realtà, e il discorso di verità che il ministro Saccomanni ieri ha posto è un discorso ineluttabile. E oggi su questo anche il ministro Zanonato è tornato, mi riferisco all'IVA. Ha detto evitare l'aumento dell'IVA, onestamente non so se ci riusciremo, me lo auguro, ma il bilancio non è un'opinione, se esce un miliardo in più va preso altrove. Ancora il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta ha detto la priorità è mantenere il tetto del deficit al 3%, altrimenti tutto è compromesso, ci esporremo a pericoli, l'Italia perderebbe anche la sua credibilità. E poi il presidente Confindustria Squinzi, che parlando oggi da Bologna, dove veniva inaugurato il Cersaie, ha detto noi siamo preoccupatissimi, non preoccupati, preoccupatissimi per la stabilità del governo, perché riteniamo che sia l'unico governo possibile in questo momento. Le cose da fare sono tantissime, ha aggiunto Squinzi, sarebbe meglio concentrarsi sui problemi dell'economia. Lo stop all'IVA non è, secondo il presidente Confindustria, una cosa prioritaria. Da tempo, ha aggiunto, stiamo chiedendo ad alta voce con tutta la nostra forza il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e un intervento deciso sul cuneo fiscale e quindi sulle tasse in busta paga, chiamiamole così. Questo, ha concluso, darebbe una spinta maggiore per far ripartire l'economia. E devo dire che anche il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, nel chiedere al governo un incontro, ha detto che bisogna ridistribuire il reddito e ridurre le tasse sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Se la legge di stabilità non darà risposta in questo senso, non si potrà procedere che con la mobilitazione unitaria, che, come capisco io, forse prevede anche lo sciopero. E a proposito di mobilitazioni, questa mattina i sindaci dei comuni italiani si sono riuniti a Milano e sono tornati a chiedere al governo il puntuale adempimento dei versamenti in sostituzione della prima rata IMU. Avevamo ascoltato la scorsa settimana l'allarme lanciato dai comuni italiani sono 2 miliardi e 4, se non ricordo male, quelli che devono essere trasferiti ai comuni, perché appunto non ci sarà più l'incasso della prima rata IMU. Erano seguite rassicurazioni del governo sulla tempistica dell'operazione, e Piero Fassino, presidente dell'ANCI oltre che sindaco di Torino, l'ANCI è l'associazione dei comuni italiani, oggi ha chiesto con forza che queste rassicurazioni promesse vengano rispettate. Lo ha fatto al microfono della nostra Raffaella Calandra. Chiediamo, come il governo si è impegnato a fare, l'erogazione tempestiva in questi giorni dell'introito che i comuni avrebbero dovuto avere con la prima rata dell'IMU. Noi abbiamo preso atto naturalmente positivamente di questo impegno, però chiediamo che l'erogazione sia tempestiva, intanto della prima rata, perché una erogazione che non sia tempestiva rischia di aprire buchi di liquidità nelle casse dei comuni, con conseguenze evidentemente nella difficoltà di onorare i nostri impegni verso i fornitori e verso i nostri dipendenti. Veniamo da anni nei quali per 12 anni consecutivi le risorse ai comuni sono state costantemente tagliate. Noi diciamo che a partire dal 2014 bisogna cambiare strada e bisogna che si smetta di tagliare sui comuni, perché siamo arrivati a un punto limite. Nel frattempo 5 imprese su 8 chiedono prestiti in banca per pagare le tasse. Il dato, che è obiettivamente drammatico, emerge da un sondaggio del Centro Studi di Un'Impresa condotto fra 122.000 imprese associate, sulla base dei dati raccolti al 30 giugno 2013. C'è l'IMU in cima alla lista dei balzelli che hanno spinto gli imprenditori a rivolgersi alle banche per pagare le tasse. Per i settori produttivi sono soprattutto gli operatori turistici, gli alberghi e le piccole industrie per i capannoni e la grande distribuzione, nel caso dei supermercati, quelli maggiormente esposti con le banche proprio per i versamenti fiscali sugli immobili e in generale anche per tutti gli adempimenti all'erario. Di Air France all'Italia parleremo a breve, adesso però il primo tema riguarda il giallo di questo Consiglio dei Ministri, che doveva esserci, poi è saltato, importantissimo, 1500 lavoratori per strada nei 5 impianti, stabilimenti, oltre ai 3 della Valcamonica, che appartengono e fanno capo al gruppo Riva Forni Elettrici. E allora di questo parliamo, ne parliamo chiaramente cercando di capire anche perché e quali potrebbero essere le prospettive. Vedo già molti messaggi, poi arriveremo anche ad alcune risposte. 349-238-6666, comunque per i vostri sms. E poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Alcuni mi chiedono come fa a piacermi Mario Draghi. A parte che io parlavo del suo inglese. Beh, mi sembra che in questi anni, senza Mario Draghi e la Banca Centrale Europea, avremmo visto un altro scenario. Grazie anche, diciamo, alla Germania, non solo. Senza le sue rassicurazioni, che avrebbe usato qualunque strumento necessario per mantenere la solidità dell'euro, forse saremmo le stesse banche, perché poi quando aumenta lo spread aumentano i problemi anche per le banche, sarebbero in maggiore difficoltà. Quindi secondo me Mario Draghi è stato, diciamo, lungimirante, ha posto un argine totale alla speculazione che si stava battendo sull'euro, grazie anche alle dichiarazioni di vari esponenti dell'Europa del Nord, ripeto, a partire da quelle della Germania, che l'euro c'è ma non è un club per tutti, vediamo chi può star dentro, chi può star fuori, e intanto si andava avanti a speculare sulla tenuta dell'euro. Da quando Mario Draghi ha detto che avrebbe utilizzato tutti gli strumenti in suo possesso, convenzionali e non convenzionali, per difendere l'euro, beh, insomma, almeno quella speculazione si è, se non allontanata, molto molto ridotta. Allora, partiamo dall'Italia. C'è una buona notizia sul fronte delle crisi aziendali che stiamo gestendo e che si stanno verificando. Indesit, ricorderete, 1400 esuberi, ha proposto un piano al tavolo del Ministero un po' più morbido. Meno esuberi e più produzione, gli investimenti salgono da 70 a 78 milioni, viene salvato il sito produttivo di Melano, Melano, e, cancellati 126 esuberi su 1400, a cui però va detto che questi 1400 c'è anche la cassa integrazione e la solidarietà, e c'è l'impegno in 4 anni a riassorbire 150 impiegati. Allora, vedo che alcuni di voi dicono, sempre su Mario Draghi, che sta solo allungando l'agonia di questo teatrino che ci ha fatto passare dalla recessione alla depressione, o che sta solo comprando tempo Mario Draghi. Attenzione, la Banca Centrale Europea, così come, ma soprattutto la Banca Centrale Europea, che ha dei vincoli molto più forti rispetto alle banche centrali di altri, per esempio americano, giapponese, non è che possa fare tutto. Ma devo dire che ha rischiato quasi di uscire dal, infatti l'ha messo sotto processo la Corte Costituzionale tedesca, di uscire dal suo mandato difendendo l'euro, perché il mandato della BCE dovrebbe essere il controllo dell'inflazione, figuratevi un po'. Per cui per quello che poteva fare, il mio giudizio resta assolutamente positivo su Mario Draghi, che ha cercato di tenere assieme tutta l'Europa con l'euro e mettendo a tacere le voci di un euro che sarebbe prima o poi saltato per aria. Dopodiché, se non c'è la volontà politica, Draghi può fare nulla. Comunque, torniamo alle situazioni occupazionali. Una buona, insomma, un miglioramento della situazione per quello che riguarda l'Indesit, mentre un giallo per quello che riguarda il gruppo Riva. Ripeto, convocato per oggi alle 15 un Consiglio dei Ministri di cui non si è più saputo nulla, neanche l'ufficio stampa di Palazzo Chigi riusciva a confermarlo. E sì, è vero che poi il ministro Zanonato ha detto oggi approveremo il decreto se avviene un sequestro si deve tutelare l'attività, ed è vero che il ministro delle Infrastrutture Lupi ha detto non accetteremo un altro commissariamento, ed è vero che in una nota il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ha detto che l'approvazione del decreto annunciato dal ministro Zanonato è di estrema urgenza, il cosiddetto decreto Riva Acciaio, anche perché la paralisi dei 7 stabilimenti sta avendo le conseguenze non solo per i dipendenti di questi stabilimenti che sono a spasso, ma anche per tutti quelli che aspettavano le forniture di acciaio. Ma resta il giallo. Paolo Bricco del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Tu hai capito che cosa è successo? Perché Zanonato lo dava per scontato questo Consiglio dei Ministri, praticamente convocato per la Riva, quasi. Sì, io ho capito che non hanno capito neanche loro, nel senso che a pochi minuti fa mi dicevano ancora che al 20% potrebbe esserci questa sera il Consiglio dei Ministri, ma all'80% è più probabile che sia domani mattina. In ogni caso, come dire, si tratta, se vuoi, dell'ennesima dimostrazione che c'è un certo sbandamento, se non altro nella comunicazione e nella strategia di gestione delle emergenze da parte di questo governo. E se questo paese ha bisogno di qualcosa, questo qualcosa è una chiarezza, una lucidità, una capacità di gestire anche gli annunci che finora sulle emergenze industriali non c'è stata. Ecco, ma secondo te, al di là dei tempi, fermo restando che il tempo è fondamentale quando tu hai 1500 lavoratori per strada, domani, da quello che tu hai capito, potrebbe finalmente uscire questo decreto Riva Acciaio, e le caratteristiche, scusami, poi ti lascio parlare, e le caratteristiche che avrà saranno quelle appunto di rendere possibile l'attività produttiva anche in presenza di un sequestro? Sì, allora a quanto mi risulta, a quanto ho capito, il provvedimento è stato licenziato dalle strutture tecniche già stamattina, quindi come dire, si tratta soltanto di capire quando andrà in CDM e se ci sarà una rapida approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. E diciamo che si tratta di una sorta di dispositivo, ci si augura, finale, che dovrebbe gestire le criticità sia di Riva Acciaio che quelle di Ilva, perché ci sono due partite in corso, ricordiamolo, oggi come oggi. Per quanto riguarda Riva Acciaio, che è la cosa, come dire, più urgente, perché appunto, come ricordavi tu, ci sono oltre 1000 persone senza lavoro in questo momento, c'è un 10% della siderurgia italiana bloccata, dentro cui stanno entrando come coltello nel burro i competitor francesi, stranieri, i francesi, i russi, i tedeschi, Ebbene, si dovrebbe andare verso un'ipotesi di soluzione, che dovrebbe essere quella di consentire, da quanto si capisce, la gestione da parte degli attuali amministratori, quindi con il custode che resta a custodire, come dire, gli impianti e gli attivi finanziari dal punto di vista formale, ma la possibilità di fruirne da parte degli attuali amministratori, i quali non sono stati revocati, non si sono dimessi, ricordiamolo, ecco. Quindi, come dire, se così fosse, se da quello da cui trapela, da, appunto, da ambienti vicini al dossier, questa cosa si verificasse, andremmo verso una soluzione tecnicamente di buon senso, ecco. Il problema, appunto, è che su questo, come su molti altri argomenti legati all'ILVA e a Riva Acciai, il buon senso non sempre è stato. Sì, io mi chiedo, Paolo, senza polemica, mi chiedo come mai non vi fosse già un decreto del genere, nel senso che il caso di Riva Acciai è abbastanza unico perché riguarda un sequestro monstro da 1 miliardo di euro e la vicenda con i danni, secondo la magistratura, prodotti agli abitanti di Taranto causati da inadempienze della famiglia Riva e quant'altro. Però, insomma, in generale può succedere che vi sia un sequestro di beni perché la magistratura sta indagando, ma non deve succedere che si blocchino gli impianti, non so come dire. Sì, ma è proprio il meccanismo, come dire, giudiziario politico industriale che in questo caso si è, come dire, incricchiato, perdonatemi l'espressione grossier, cioè, ed è anche proprio, sembra quasi che ci sia un metodo fondato sulla sull'irrazionalità. Basti dire che ancora venerdì mattina noi eravamo usciti dall'incontro tra Tagarelli, il custode giudiziale, espressione dei magistrati di Taranto, Bruno Ferrante, il rappresentante della famiglia Riva, e il ministro dello sviluppo Zanonato, con come dire, l'indicazione che la palla ripassava nel campo dei magistrati e degli imprenditori, e quindi in qualche maniera gli imprenditori, la famiglia Riva attendeva una risposta formale da parte dei magistrati per sapere che cosa si poteva fare, e a distanza di 72 ore questa cosa è ricambiata ancora con il giallo del CDM. Ora è chiaro che stiamo parlando di una situazione drammatica, perché ricordiamo sono fabbriche che nulla c'entrano con... No, ma poi che sono piene di ordinativi, 50.000 tonnellate d'acciaio solo per i 3 stabilimenti da Val Camonica, commesse nell'ex stabilimento Caltarossa, comunque della Riva, a Verona, commesse per lavorare a pieno regime fino a Natale, per cui qui... Sì, io dico una cosa però, la giustizia, la difesa, però anche i giudici ogni tanto qualche autocritica potrebbero farla, cioè nel momento in cui tu sai che emetti un provvedimento di sequestro che potrebbe avere questa ricaduta, forse era il caso di sentirsi magari prima con il commissario, forse anche di avvertire il governo, attenzione, questo certo. Sequestro non è una novità, sequestro, non è che hanno sequestrato droga all'improvviso nascosta in un camion, è un atto dovuto, è previsto dalla legge, è dovuto, però si poteva anche dire attenzione che se no c'è il rischio che si blocchi tutto, siamo pronti a fare in modo, invece si arriva sempre dopo. Sì, si arriva sempre dopo. Ecco. A dimostrazione, secondo me, la dico tranquillamente, che anche i GIP e i magistrati ogni tanto conoscono molto bene la legge, ma sottovalutano i principi basici di una gestione aziendale, perché se poi non ti rendi conto che con quel sequestro, giustissimo, legale, ma blocchi 7 stabilimenti, forse ci si poteva arrivare un po' prima, non adesso iniziare a dire ma sì, però attenzione che il commissario giudiziale ha tutte le disponibilità e trovare un accordo. Cioè si fanno prima queste cose e poi tanto sequestro lo facevi comunque, non è, ripeto, un sequestro lampo o una rifurtiva trovata all'improvviso. Era dovuto come atti perché la famiglia Riva è accusata di non aver investito quei soldi, non solo quelli, per mettere in sicurezza, bonificare e quant'altro lo stabilimento dell'ILVA di Taranto. Paolo? Ecco, stavo dicendo, giustamente, come volevo aggiungere una cosa a quello che hai detto te, senz'altro fra i giudici c'è un problema di conoscenza delle reazioni che i loro provvedimenti legittimi e giuridicamente magari anche inattaccabili possono avere su organismi industriali e finanziari complessi come grandi gruppi che danno lavoro a migliaia di persone, gestiscono commesse importanti, consentono a questo nostro paese di restare dentro le catene internazionali della fornitura della manifattura globale. Sì, perché non c'è... prego. Ecco, se i giudici possono non avere questa contezza, sarebbe bene che in questo percorso di conoscenza del mondo, scusate l'ironia, li aiutassero i politici, mentre invece soprattutto in quest'ultimo periodo è sembrato che in qualche maniera il governo cedesse il campo, lasciasse mano libera ai giudici senza una giusta partnership. Non so se riesco a spiegare. No, certo, ma infatti i poteri sono indipendenti, ma dovrebbero dialogare, mettiamola così. Tra l'altro c'è, come tu citavi, non solo il problema dei dipendenti, che è il primo problema di chi ha spasso, ma anche e soprattutto che se queste forniture di acciaio non vengono date, le daranno agli stabilimenti italiani e esteri, fabbriche spagnole, francesi, in primo luogo francesi e turche, e rischiamo di perdere poi per il futuro i rapporti commerciali. No, non è basta pensare che soprattutto gli stabilimenti dell'area veneta e della Valcamonica lavorano moltissimo con John Deere, lavorano moltissimo con Caterpillar, lavorano moltissimo con grandi strutture che se non possono acquisire le commesse già preordinate nei prossimi 2-3 mesi si volteranno dall'altra parte e andranno altrove. Con il rischio che non tornino più. Grazie a Paolo Bricco, vedremo se domani il governo licenzierà questo decreto legge. Mamma mia, che difficile delle volte che è. Allora, nessuno ha mai detto che se Riva hanno rubato o hanno creato un danno ambientale e fisico alle persone sia colpa dei magistrati, ma per favore, cioè, abbiamo detto che la magistratura deve fare il suo corso, hanno avuto anche i domiciliari, anche in carcere, sequestri, tutto quello che volete. Ho detto solo, c'è qualcuno che mi scrive: non è compito della magistratura prevedere le conseguenze. Beh, insomma, mica tanto, perché se qua un po' di mezzo ci vanno 1500 persone, io dico non si poteva. Un'altra persona mi scrive: lei avrebbe voluto che i giudici che commettessero favoreggiamento, i sequestri non si minacciano, annunciano, se no i soldi scappano all'estero. Veramente sembra che qua all'estero non sia scappato nulla, ma semplicemente non potendo pagare gli stipendi, questo dice la famiglia Riva, si è bloccata l'attività. Dopodiché è un ricatto di Riva? Non lo so, sto solo dicendo se i tavoli che adesso si stanno facendo tra PM, o meglio Procura Tarantina, commissario e presidente dell'IVA, non si sarebbero potuti fare prima, tutto qui, in modo da evitare di arrivare a rincorrere all'ultimo situazioni già critiche. No, non si poteva fare. Allora, la borsa, oggi non c'è Radio Corriere sulle 24 ore, dovete accontentarvi di me: meno 0,30% Milano, meno 0,75% Parigi, meno 0,47% Francoforte, meno 0,70% Londra, l'America perde lo 0,40%, Eni, attenzione, meno 3,45%, ma staccava la cedola oggi, cioè il dividendo. Mediaset è peggiorata a metà seduta, poi ha chiuso con un meno 1,76%, e ancora per quello che riguarda i titoli in calo segnalo anche Azimut meno 1,90%. Bene invece il Monte dei Paschi più 1,60%, ma è arrivato a guadagnare anche il 2% alla vigilia del Consiglio di Amministrazione, e corre parecchio Finmeccanica più 4,20% sull'ipotesi di scorporo appunto delle controllate Ansaldo STS, ma anche Ansaldo Energia e Breda. Qui è il tema delle possibili future privatizzazioni. Tra l'altro, per quello che riguarda il Monte dei Paschi, il titolo ha accelerato anche dopo aver comunicato la sospensione dei pagamenti degli interessi alle prossime date di pagamento previste di una serie di emissioni ibride. È una cosa un po' tecnica, ma è una facoltà che aveva già esercitato senza ripercussioni lo scorso 6 febbraio. Corre anche Telecom più 3,42%, Oggi il commissario della GCOM, dell'autorità che controlla, diciamo, il mondo della telefonia e delle comunicazioni, che vigila sul mondo, ha detto: se Telecom non proporrà lo scorporo della rete, quindi la rete da una parte e i contenuti dall'altra, con un'iniziativa volontaria, forse dovremmo avviare i dovuti approfondimenti per accertare la sussistenza delle condizioni per imporlo come rimedio e garanzia delle parità di accesso. Anche questo ha influito, ma poi sullo sfondo, il fatto che ci siano ancora molte ipotesi sul futuro assetto societario di Telecom, dovrebbe chiudersi entro settembre. La vicenda, migliori e Fiat bene comunque più nei 70, oltre ai titoli che ho già citato, bene anche Mediobanca più nei 20 come Campari, Ansaldo, STS, Gtech più nei 13, Prismian più 0,80. Male, oltre a Deni e Azimut e Mediaset, anche Luxottica meno 1,40, A2A meno 1,30, Enel meno 0,70. Migliori e peggiori: Banco di Desio e della Brianza più 8,20, Meritec Nimon più 7,50, Cell Therapeutics più 4,80, Rete Elite più 4,30, Fronte Opposto PMS meno 4%, e poi Eni e poi Poligrafici Printing meno 3,24%. Barisoni, lei è un sostenitore degli industriali predoni che non rispettano l'ambiente. No, guardi, io sono un sostenitore dei 1500 lavoratori degli stabilimenti Riva che non hanno fatto nulla se non il loro lavoro, e che sono a spasso e a casa perché la giusta iniziativa della magistratura, che applicando la legge ha previsto il sequestro di quasi 1 miliardo, si è ha avuto una ripercussione immediata sui dipendenti. Di questo io sono sostenitore, ma si figuri, a me che mi interessa dei Riva. Verranno processati e, come tutti i cittadini di questo paese, se l'accusa dimostrerà di avere ragione, verranno condannati e anche obbligati a risarcire, ma ci mancherebbe. E poi mi interessa anche il sistema produttivo di questo paese, visto che questo a cascata penalizza quegli stabilimenti e penalizza anche tutti i clienti dei Riva, anche quelli italiani. Gianni Dragoni, aiutaci tu. Buonasera. Buonasera, ciao. Ma sulla vicenda Air France, che è uscito qualcosa dal consiglio di amministrazione di Air France? Non ho visto uscire nulla oggi, quindi forse stanno facendo qualcosa di importante quando non esce nulla. Ma resta l'ipotesi, hanno ancora, diciamo, molti dubbi se aumentare la loro quota, se sottoscrivere l'aumento di capitale, se salire al 50% di Alitalia. Allora, per quello che posso capire è che la situazione intanto è incerta ancora, anche perché quello che è la conseguenza di ciò che farà o farebbe France di fronte a una quasi certa richiesta di aumento di capitale dell'Alitalia è legato anche a cosa faranno gli altri. Ad esempio, molti soci italiani, tra cui lo stesso Riva di cui parlavi prima, non credo che sottoscriveranno l'aumento perché hanno varie difficoltà. Beh, tra l'altro, ad esempio, Riva, se lo sottoscrive Riva veramente cambia programma, nel senso che Riva sono state sequestrate tra l'altro dai giudici, quindi potrebbe usare altre risorse, ma sembra improbabile. Comunque, quindi siccome almeno... No, per inciso, Riva è un socio di peso in Alitalia, perché la FAER ha il 10,6%, un altro 8,8% ce l'ha Intesa San Paolo, poi Atlantia e Benetton hanno l'8,8% anche loro, IMSI, quindi Colaninno, il 7%, Toto Holding, ex numero uno di Erwan, al 5%, e così via. Vai avanti, scusami, ti ho interrotto. Quindi dicevo, siccome dei soci italiani anche molto importanti, per ragioni varie, chi non ha i soldi, chi non li vuole perdere come è successo finora, chi magari non può, si stima che almeno un 40% circa del capitale dell'Alitalia detenuto da soci italiani non siano in grado, non possono, non vogliono fare un aumento di capitale. Questo cosa vuol dire? Che per assurdo potrebbe essere che anche se Air France fa solo il suo pezzo dell'aumento di capitale, si trova che quasi nessun altro ha messo degli altri soldi o pochi altri, e quindi automaticamente la sua quota sale. Certo. Naturalmente Air France questo, se vuole farlo, come credo che possa farlo, lo fa cercando di capire cosa succede anche agli altri. Non è che all'improvviso si trova ad avere la maggioranza di una società che ha anche molti debiti. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. abbiamo un sogno anche per oggi alle 18:08, riprende infatti Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Il nostro sogno oggi è facile, visto che siamo all'indomani di una vittoria schiacciante dell'Unione Cristiana Democratica di Angela Merkel in Germania, 311 seggi su 630, anche se manca per un soffio, per soli 5 seggi, la maggioranza assoluta. Il nostro sogno è molto molto facile, dicevo, adesso che Angela Merkel avrà probabilmente un percorso abbastanza agevolato per fermare il governo, magari non essendo più in campagna elettorale potrà avere una posizione più, non morbida, non vogliamo elemosina, ma più lungimirante si può dire, in cui non ci sia solo Deutschland über alles, la Germania su tutti, ma ci sia un'idea di Europa, anche perché ha più tempo, ha uno spazio per gestire questo suo risultato elettorale e per capire che se poi frena l'Europa, come abbiamo già visto nei dati economici l'anno scorso e inizio anno, frena anche la Germania e il suo export, e che forse conviene alla Germania essere il paese più forte dentro l'area euro che non il paese più debole fuori dall'euro rispetto a altre grandi economie, magari con alcuni paesi dell'euro che tornano a svalutare. Il resto del voto lo riassumiamo, la seconda forza si conferma in Germania, l'SPD, i socialdemocratici, a quota 192 seggi, poi la Linke, la sinistra, terzo partito con 64 seggi, scalza i Verdi, i Grünen ne ottengono 63, il partito anti-euro è arrivato al 4,7%, di poco sotto i liberali, che sono fuori comunque dal Bundestag perché c'è la soglia di sbarramento, fermi anche loro al 4,8%. E allora chiedo, nel ringraziare per averci raggiunto in collegamento, al professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano e direttore del comitato scientifico dell'ISPI, che è l'Istituto di Politica, di Studi di Politica Internazionale. Buonasera, professor Bruni. Buonasera. Chiedo a lei, intanto ringrazio perché ci ha raggiunto in collegamento anche Vincenzo Longo, che è strategy di IG, è un gruppo finanziario che ha presentato proprio oggi uno studio sulle conseguenze per i mercati dell'esito delle elezioni tedesche. Buonasera anche a lei, Longo. Buonasera a voi. Però vorrei un attimo restare su Bruni sui temi di politica economica. È più una buona notizia che il partito anti-euro abbia fatto flop al 4,7%, o il fatto che Angela Merkel adesso, diciamo, possa ragionare senza così l'appuntamento elettorale in ogni sua dichiarazione? Beh, il fatto che gli anti-euro non... mi sente perché c'è disturbo nel... La sento molto bene io, però mi dica. C'è disturbo nel telefono. Il fatto che il partito anti-euro non sia riuscito a passare il 5% è molto importante, perché se fosse entrato in Parlamento avrebbe avuto un diritto, diciamo, di continuo appello alla Corte Costituzionale, con cui avrebbe potuto praticamente fare una specie di ostruzionismo a ogni politica europea del governo. D'altra parte è sotto il 5%, però non di molto, e in fondo questo tema dell'euro in campagna elettorale è stato un po' taciuto da Merkel. D'altra parte lei all'interno della Germania è sempre stata molto attiva nel fare una pedagogia favorevole all'euro. Nel complesso Merkel è una forte europeista. Bisogna che adesso non solo riesca a fare un governo abbastanza presto senza perdere tempo troppo nelle trattative, ma bisogna che riprenda questa pedagogia e la tenga viva, perché l'anno 21 ci sono anche le elezioni europee e potrebbe essere molto grave se questa vittoria non si ripetesse. Ecco, poi arriveremo appunto anche al tipo di coalizione che potrebbe avere o di cui potrebbe avere bisogno Angela Merkel, però volevo un attimo capire le reazioni dei mercati, perché voi, mi riferisco a Vincenzo Longo, avete detto prima delle elezioni tedesche che se Angela Merkel venisse rieletta, il differenziale BTP Bund, quindi lo spread, da qui a fine anno sarebbe potuto restare elevato. Siete ancora di questa opinione? Oggi lo spread era 240 punti. Sì, assolutamente sì. La nostra view è che... Mi dica visione. Ah, ok. La nostra visione a riguardo è che una conferma della Merkel potrebbe continuare a mantenere un po' sotto pressione tutti i paesi che hanno fatto ricorso comunque agli aiuti negli ultimi anni, e quindi il perdurare di questa crisi poi si rifletterà inevitabilmente anche sui rendimenti di titoli di Stato italiani e quindi di conseguenza sullo spread BTP Bund. Allo stesso tempo ci aspettiamo un Bund che rimanga comunque agganciato su dei livelli bassi in termini di rendimento ai livelli che abbiamo visto fino a qualche mese fa, e quindi questo poi favorisce uno spread abbastanza sostenuto, quindi questa rimane la nostra visione a riguardo. Nel caso in cui ci fosse stata invece una maggiore apertura a partiti di centrosinistra, probabilmente la maggiore apertura di questi partiti alle tematiche di integrazione europea e l'apertura anche alla salvaguardia dell'Eurozona avrebbe garantito un forte restringimento dello spread a seguito anche di miglioramento un po' di tutti i titoli di Stato dell'area periferica. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Professor Bruni, dicevo, lo scenario più probabile in questo momento, sì, certo, c'è chi fa notare, anche tra chi ci scrive, che se si mettessero assieme i socialdemocratici, la Link, la sinistra e i verdi, arriverebbero anche sopra. La vedo molto molto difficile. Comunque, chiedo a lei. No, credo che, diciamo, la cosa che Merkel avrebbe preferito era continuare con i liberali, certo. Invece si sono perduti anche, ricordiamolo, perché hanno fatto una pessima campagna elettorale tutta centrata demagogicamente, populisticamente su presunti rischi di inflazione e sul rischio che arrivasse la sinistra, insomma lo spauracchio, insomma sono stati puniti in modo drastico dall'elettorato per l'inconsistenza della campagna elettorale. Rimangono i socialdemocratici e i verdi, che sono due cose molto diverse e di diverso peso. Ho l'impressione che con i verdi sia più difficile. D'altra parte Merkel cercherà di giocarseli un po' uno contro l'altro, in modo da poter spuntare un governo che abbia un segno più vicino a quello che vuole lei. Io spero che da tutto questo non nasca una trattativa troppo lunga, perché la Germania ha bisogno di governo. Ricordiamoci che negli ultimi tempi queste elezioni hanno bloccato un po' anche la politica interna tedesca, che non mi sembra sia stata molto attiva ultimamente. La Germania ha bisogno di riforme, ha bisogno di aumentare gli investimenti in modo drastico. Gli investimenti sono poco più del 15% del PIL al momento, le infrastrutture in Germania cominciano a soffrire, c'è bisogno di liberalizzazioni, soprattutto nei servizi per le imprese, le professioni e così via, c'è bisogno di una forte riforma per le banche, che dobbiamo fare fra l'altro tutti insieme in Europa, e le banche tedesche non sono affatto messe bene. No. Bisogno di una politica energetica molto attiva, perché è stata traumatizzata dall'abbandono del nucleare e la bolletta energetica in Germania è molto alta, e tutto questo va fatto senza aumentare il debito, perché i tedeschi hanno beneficiato negli ultimi tempi di un tasso di interesse sul debito artificiosamente basso dovuto agli squilibri interni all'Eurozona, quindi è molto difficile governare bene la Germania, e credo che è quello che abbiamo bisogno anche noi, è che la Germania venga governata bene dal suo punto di vista, che anche va bene per noi. Non è vero che abbiamo conflitti di interesse con la Germania. La migliore cosa che possono fare i tedeschi è di fare le riforme di cui loro hanno bisogno, così come noi dobbiamo fare quelle di cui abbiamo bisogno noi. Ah sì, che ognuno debba farsi i suoi compiti a casa, siamo d'accordo. Delle volte, diciamo, loro hanno voluto fare i compiti nostri, mettiamola così, o dieci soprattutto quali compiti fare. Però ancora su questo, vedo molti messaggi Sulla Germania, sugli interessi, sull'unione bancaria. Certo che l'unione bancaria, la Germania è molto molto resistente ad avere una banca centrale europea che vigili sulle sue banche, però deve stare attenta perché grossi problemi alcune sue banche li hanno avuti, anche le casse di risparmio rurali, e insomma non si senta esclusa né illesa. Mi dico una cosa invece, Longo, nel vostro caso lo scenario peggiore o migliore quale sarebbe come reazione poi dei mercati? Beh, a questo punto lo scenario peggiore potrebbe essere una mancata alleanza con l'SPD, probabilmente, che potrebbe portare poi a un'incertezza politica, mm-hmm. quindi a un prolungamento di questa fase di incertezza che poi magari può sfociare in un ritorno alle urne. Questo sicuramente sarebbe prezzato dal mercato nella maniera peggiore, quindi con forti discese di borsa un po' per tutti gli indici europei. Lo scenario migliore invece resta quello di un'alleanza proprio con l'SPD, che è quello che vogliono i tedeschi, e la Merkel sicuramente terrà conto di questo elemento, tra l'altro è un'esperienza consolidata, approvata nel 2005, solo che in questo caso una soluzione rapida anche nelle trattative sarebbe forse un elemento da tenere in considerazione, visto che le borse sono su dei massimi storici e un prolungamento di queste trattative potrebbe poi generare incertezza tra gli operatori e quindi portare un po' a uno storno azionario. Quindi un'alleanza con l'SPD raggiunta nella maniera più rapida possibile, anche perché ricordo che il 24 e 25 ottobre si riunirà il Consiglio europeo per parlare appunto di unione bancaria, quindi sono dei passaggi e delle tappe importanti che richiedono appunto un leader a livello europeo che viene identificato spesso proprio con la Germania. Ecco, Bruni, per concludere, da questo punto di vista, insomma, le probabilità che lei dà a un accordo CDU-SPD a breve, quindi una grande coalizione, una grossa coalizione, e soprattutto non si rischia poi di avere una Germania un po' più, alla luce di quello che le diceva, un po' più impallata, insabbiata, cioè quando devi mettere d'accordo i due partiti, anche noi viviamo una grande coalizione, questo è noto a tutti, però insomma, ne vediamo anche tutte le difficoltà, perché poi sono due anime molto diverse. Certamente, credo che la probabilità che si arrivi ad un accordo sia abbastanza alta, un po' più bassa quella che ci si arrivi svelto. Il pericolo cui lei accenna è concreto e fa pensare che forse anche in Germania la legge elettorale non sia la migliore possibile. Infine vorrei dire che anche come succede a noi, anche in Germania, può essere utile la cooperazione europea anche per risolvere i problemi politici interni. Credo che una coalizione con l'SPD, se si mettesse a lavorare con l'Europa e individuasse insieme a noi i problemi comuni e facciamo dei tavoli dove li attacchiamo sul serio senza guardare troppo i propri ombelichi, credo che questo finirebbe a aiutare anche questa coalizione a lavorare sul concreto e a non guardare al proprio piccolo interesse, che potrebbe, come addirittura diceva prima l'altro intervistato, addirittura portare a riaprire le urne. Sarebbe veramente devastante? Devastante, insomma. Io credo che un atteggiamento proattivo nei confronti dell'Europa sia anche un modo per fare un'agenda interna molto concreta e molto concorde, perché i problemi che abbiamo in Europa li abbiamo un po' tutti e sono molto gravi e seri. Ricordiamoci che la Germania ha un problema, per esempio, demografico molto molto serio, che si comincia a sentire anche sul mercato del lavoro, dove mancano giovani ingegneri, eccetera, e si va verso un invecchiamento della popolazione molto forte, che va gestendo tutta la politica di immigrazione, che non può essere gestita da sola dalla Germania. Quindi è tutta un'agenda, come quella bancaria, dove le banche tedesche sono veramente in alcuni casi messe male e in alcuni casi messe in modo pericoloso, come Deutsche Bank, che ha un leverage infinito. Quindi dobbiamo irrobustirci insieme, affrontare i temi dell'Europa, e facendo così ognuno smetterà di fare i piccoli bisticci che indeboliscono le governance dei singoli paesi, almeno per 10 anni. Ecco, mi dica dopo un'ultima cosa però, Bruni, in una battuta, in un titolo, ma secondo lei perché la Merkel poi non ha ottenuto successo, che anche nelle proiezioni precedenti al voto sembrava fosse un traguardo possibile. C'era chi la dava addirittura al 46%. No, beh, ci sono stati dei polls, delle exit polls molto favorevoli, però sì. Obiettivamente credo che il successo di Merkel sia superiore a quello che lei si aspettava dal punto di vista del suo partito. Purtroppo forse lei si augurava che andasse i liberali. Sì, è più la debolezza dei liberali che in realtà il non successo di Angela Merkel. Grazie a Franco Bruni, e quindi anche da lì monitoreremo nei prossimi giorni e settimane l'evoluzione anche politica in Germania. Grazie a Franco Bruni, grazie anche a Vincenzo Longo. C'è chi dice: ma cos'è, un programma di musica? Lei fa il DJ? No, la musica la mettiamo ogni tanto, perché visti i temi dell'economia facciamo anche respirare. Ma ho un ultimo sogno che questa volta riguarda l'Italia, prima di chiudere. I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E il sogno è di vivere in un paese dove chi dona sangue non venga punito dalla legge Fornero. Questo è veramente incredibile, nel senso che hanno scoperto i donatori di sangue, quelli più assidui, e se non sono accorti, per esempio a Cremona, perché la città con più iscritti, 6.000 diventano 17.000 donatori se si guarda la provincia, iscritti all'Avis. Dicevo, che cosa è successo? Gli iscritti, i donatori di sangue hanno un permesso per donare il sangue, no? Difficile farlo mentre sei al lavoro, anche se c'è qualcuno magari che vorrebbe pure questo, te lo chiederebbe pure. Però il presidente dell'Avis si è accorto che quando questi si sono recati ai patronati per i conteggi, hanno scoperto che i giorni utilizzati per donare il sangue non venivano più calcolati ai fini pensionistici. A questo punto è stato rivolto un appello ai parlamentari. Io spero che il governo intervenga presto. Ho capito che non sarà il principale problema del paese, ma che paese è quello in cui prima dai un permesso lavorativo, che vuol dire che quel giorno lì tu sei autorizzato a non lavorare, viene conteggiato poi per la tua pensione perché vai a donare il sangue, e poi ti accorgi che per via anche della riforma previdenziale della ex ministro Fornero questi giorni non sono più conteggiati? Ma per favore. E poi giustamente il presidente dell'Avis dice: ma forse c'è il rischio che a questo punto la gente smetta di donare il sangue, ed è veramente una beffa per chi cerca di fare in questo paese qualcosa per gli altri. Ci mancava solo la Fornero, anche la riforma della Fornero anche sui donatori di sangue. Comunque, da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.